Eccoci di nuovo in voce, 11:22, per continuare ovviamente a parlare di NoTab. Al telefono un compagno per appunto presentare un po' l'iniziativa romana di quest'oggi, l'assemblea che si terrà alle 18 al Volturno occupato. Pronto? Eccomi qua, sono Luca del coordinamento di lotta per la casa, ma al di là di questo, insomma, ci teniamo a fare appello, diciamo, alla città di Roma, a tutti i compagni e alle compagne, per vedersi oggi pomeriggio, insomma, alle 18 al Volturno, e capire bene come dare una risposta, insomma, rispetto a quanto accaduto in Valsusa e agli arresti dei compagni, non solo i due nostri romani, insomma, gli attivisti della lotta per la casa, ma tutti e sette, su quale, tra l'altro, sulla situazione loro ci dovrebbe essere qualche aggiornamento, quindi magari adesso ci possiamo soffermare un attimo anche su questo. Però chiaramente risposta non solo alla repressione, ma diciamo a un'idea di rilancio, insomma, di quella lotta e delle lotte sociali in questo paese, in un periodo che si annuncia caldo, insomma, non parlo soltanto dell'estate, ma dal percorso che viene fuori anche rafforzato da quanto discusso al campeggio NoTab di Venaus, al presidio di Venaus, verso l'autunno prossimo. Ecco, quindi l'appello è questo, di vedersi oggi pomeriggio, di ragionare, di tornare subito in piazza, ecco, di non lasciar cadere nulla nel vuoto, e di reagire e di proseguire nelle nostre lotte. Sì, anche perché, insomma, la miglior solidarietà per chi è stato arrestato, fermato, eccetera, forse oltre ovviamente alla solidarietà fattiva, concreta, delle casse, della vicinanza, è anche quella appunto di continuare con le lotte sociali contro cui la repressione agisce, insomma, no? Assolutamente sì, c'è stata anche una 2 giorni di discussione molto interessante, insomma, che ci porta a rilanciare un percorso comune verso l'autunno, verso questa settimana di lotta e la manifestazione in particolare del 19 ottobre prossimo. Chiaramente non bisogna trascurare il fatto che in assenza di meccanismi che portino a redistribuire quantomeno reddito, quindi la crisi che avanza e che viene pagata per intero dai settori popolari, mentre questi signori proseguono con l'austerità, e il fatto che vogliano imporre, no, in nome del profitto, grandi opere che devastano i territori e le nostre vite, come succede in Valsusa, e che non cambi nulla di fatto, no, nella governance di questo paese, come chiaramente di quella europea, porta con sé il fatto che le risposte che arriveranno saranno quelle, no, di carattere repressivo, e quindi c'è comunque un ragionamento da fare, c'è delle risposte a dare anche sul terreno, no, fra virgolette, della lotta alla repressione, ma la lotta alla repressione è soprattutto proseguire con più forza ancora i nostri percorsi di liberazione. Ecco, quindi chiaramente è questo il profilo che è importante dare all'assemblea. Ecco, però, insomma, non lasciamo cadere nulla nel vuoto, stringiamoci attorno a questi compagni, rispondiamo in ogni città e diamo subito un segnale che il movimento c'è e che non lascerà cadere nulla, no, di nel vuoto, nulla di intentato. Ecco, volevo solo dire che pochi minuti fa, non so se è stato già detto, sì, abbiamo dato la notizia, se me lo confermi, insomma, 6 ai domiciliari e 1 obbligo di dimora. Sì, mi sembra che questa la notizia, i 2 romani sono 2 domiciliari, insomma, quindi ecco, questo è la notizia che ci è arrivata anche a noi. E senti, rispetto appunto a stringere, a mettere in piedi campagne, lotte, vicinanza a questi compagni, si è parlato anche di costruire, come dire, momenti in tutte le città per esprimere, insomma, la nostra partecipazione alla lotta NoTab e la vicinanza a chi è stato arrestato, ferito, eccetera. Sì, io credo che già diciamo, da Torino e dalla Val di Susa venga fuori un'indicazione per mercoledì di mobilitazione anche serale. Ecco, potrebbe essere una cosa che viene raccolta in altre città, sicuramente sta girando, e che possiamo magari raccogliere anche noi qui a Roma. si parlava anche di mobilitazioni verso il fine settimana, come di altre cose, insomma, che possono essere utili ad allargare, diciamo, una campagna su questo, e quindi, insomma, penso che potremo oggi mettere al vaglio, tra virgolette, di questa discussione collettiva un po' tutte le proposte che vengono fuori, e decidere un calendario comune su cui investire, insomma, già dai prossimi giorni. Sì, perché da una parte, come dire, si assiste a un'ondata repressiva molto forte, insomma, che ha toccato la Val di Susa, ma che ha toccato appunto i movimenti della lotta all'abitare e anche poi, insomma, compagni e compagni del 15 ottobre fino a Genova, insomma, stiamo assistendo a una stagione molto forte da questo punto di vista. Dall'altra c'è invece tutto quello che noi riusciamo a mettere in campo e la mobilitazione a partire dalla Val di Susa, che insomma fino al 27 già aveva un calendario molto nutrito, e poi, insomma, le lotte in tutti i territori. Assolutamente sì, anche, diciamo, per i livelli di conflitto che sono dati in questo paese, che sono importanti in alcuni territori su alcuni temi, ma non sono sicuramente all'altezza, no, delle contraddizioni che viviamo. Invece il livello della repressione anche preventiva è estremamente forte, cominciamo ad avere numeri ma anche proporzioni proprio in termini di restrizioni, di condanne, no, molto molto pesanti, quindi non va trascurato questo dato, con il quale dobbiamo fare appunto i conti nelle nostre lotte quotidiane, nel nostro tentativo di cambiare radicalmente questo sistema di produzione e di vita che ci opprime sempre di più. Quindi, insomma, non so se vuoi aggiungere altro, se no ricordiamo ancora una volta l'appuntamento di oggi, e poi magari noi adesso sentiremo la valle per anche un aggiornamento di quanto sta succedendo su, e poi, insomma, magari ci risentiamo dopo l'assemblea. No, certo, nulla da aggiungere. Ore 18, via Volturno 37, al Volturno occupato, arriviamo in tanti e tante, ecco. Certo, arriviamo in tante e tante, è importante esserci, è importante discuterne insieme, e poi ne riparleremo anche da questi microfoni, ovviamente. Ok, un saluto a tutti e tutte, allora. Grazie, a presto. Grazie a voi. Ciao.